Ognuno coltiva il suo orticello, ma guarda quanto è bello quello di mio fratello. Per non farsi mancare niente, ci ha piantato anche 30 pannelli solari, che sembrano maioli, che bellissime piastrelle, cariche di cadmio e piombo. Inquino, intossico come se non ci fosse un domani. Volevo coltivare pomodori, ma preferisco gli odori dei bonificatori, altro che i cavolfiori. Ho coltivato l'orto e mi sono accorto che sembra di essere all'aeroporto. Il rumore delle pale mi mette di malumore, sono sotto stress e mi è venuto un malore. Ho coltivato l'orto e sono morto, per essere green sono finito nell'Eden. E anche se bevo gin, mi ascolti le Zeppelin, riesco a fare un cin cin. Cin cin, ma quanto è bello essere green. Coltiva il sorticello come fanno il fraticello e il pitello. Fratello, guarda che bello orticello. Ho seminato odori, pomodori, cavolfiori, porri, patate, cipolle, tanta verdura e un albero di fichi che mi darà frescura quando c'è la calura, con la bordura e la pacciamatura. Tra qualche mese ci saranno delle sorprese. Ognuno coltiva il sorticello, ma guarda quanto è bello. Ho scritto il nome sul cartello, tutto in stampatello. Poi all'improvviso ha suonato il campanello. Era quel birboncello con la sanzione bustata in lettera raccomandata. Non puoi coltivare niente, ci scusiamo per l'inconveniente. La colpa è del coefficiente in vigore in Occidente. L'ho firmato il vicepresidente e lei non può andare controcorrente. In alpeggio faccio un bel parcheggio, potrai ammirare il panorama. Non ci sono più capre a brucare l'erba, invece delle mucche, valdrà che con parrucche. Ho coltivato l'orto.